Incontri di Gianfranco Fabi. Con questa musica, una musica tradizionale cinese eseguita dall'Orchestra Filarmonica di Shanghai, buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Giuliano Noci. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Giuliano Noci non è cinese, ma abbiamo iniziato con una musica cinese, perché Giuliano Noci è prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, quindi un ambasciatore del Politecnico di un'università in Cina. Cosa assolutamente sì, diciamo che ormai è la seconda casa, da 12 anni che il Politecnico di Milano ha eletto la Cina come paese di riferimento, eroghiamo iniziative di formazione con le più importanti università cinesi. Mi piace dire ai radioascoltatori che abbiamo oggi ogni anno circa 1000 studenti cinesi che piacevolmente trascorrono il loro percorso di studio al Politecnico di Milano. Quindi fisicamente vengono a Milano, non ci sono solo i cinesi del quartiere cinese, ma alcuni di questi sono anche al Politecnico per studiare. Assolutamente sì, sono sparsi nelle varie sedi del Politecnico di Milano e ci sono comunque anche altre università italiane che lodevolmente stanno facendo questo tipo di iniziativa. Ma mi permette di dire, siccome la Cina sta investendo molto sulla crescita del capitale umano, il Politecnico sta aprendo, col supporto, devo dire, finanziario dei cinesi, anche dei campus proprio in Cina. Quindi diciamo c'è una filiale del Politecnico di Milano in Cina? Assolutamente sì, abbiamo in questo momento una filiale, diciamo così, a Shanghai, e la seconda molto probabilmente la apriremo a Xi'an, la città dei soldati di terracotta, dove il governo locale e l'università locale ci sta aprendo ponti d'oro per quanto riguarda l'industrial design. Quindi su questo fronte l'Italia ha qualcosa da insegnare ai cinesi? Come vedono i cinesi l'Italia anche dal profilo educativo, formativo? Beh, ovviamente bene, perché lei è prorettore del Politecnico per la Cina, però guardando un po' alla realtà delle cose, quali sono i problemi che dobbiamo affrontare nei rapporti con la Cina? Ma in realtà i cinesi vedono bene l'Italia, e la vedono bene per la componente design. Mi permetto di dire che non è tanto e solo il design come lo intendiamo noi, cioè il design del sistema fashion, del sistema moda, dell'arredo. Per design loro intendono progettazione e c'è quindi una grande richiesta in termini di competenze relative alla progettazione, ad esempio, di meccanica strumentale, a progettazione di impiantistica elettrica. Quindi i cinesi sono consapevoli che in Italia, a dispetto di tutto quello che avviene, esistono comunque competenze privilegiate. Siccome loro stanno investendo massivamente in innovazione, ritengono che nel mondo anche l'Italia possa essere un interlocutore di riferimento. Ed è in questa chiave che si spiega l'interesse da parte di interlocutori cinesi, anche importanti, di investire per sviluppare una partnership in Cina con un'università italiana come il Politecnico di Milano. Ecco, ma questo può essere anche un traino poi per la presenza delle imprese italiane che alcune hanno tentato di delocalizzare in Cina, altre hanno tentato di esportare in Cina, altre hanno tentato di creare dei poli produttivi in Cina. Ecco, come sta andando questo rapporto produttivo al di là dell'aspetto formativo educativo? Diciamo che la presenza in università è prodroma alla presenza di imprese. I tedeschi hanno investito 40 anni fa massivamente nel sistema universitario cinese, ne stanno raccogliendo i frutti. Volkswagen, Audi, Mercedes, Siemens hanno i principali mercati di riferimento lì. Quindi in questo senso una presenza del Politecnico e di altre università funge veramente da ambasciatore. Se noi formiamo risorse e le formiamo in Italia o là con matrice italiana, creiamo degli ambasciatori commerciali per i prodotti del Made in Italy. Quindi in questo senso la presenza di università è prodroma a iniziative di sviluppo industriale. Già oggi peraltro esistono enormi opportunità. Inviterei i radioascoltatori e gli imprenditori che in questo momento ci stanno ascoltando e che ringraziamo e che sono potenzialmente interessati alla Cina a considerare che la Cina è sì un'opportunità, a non guardare la Cina secondo i canoni tradizionali, cioè la Cina non è Pechino, Shanghai o Guangzhou, la Cina è molto altro e le opportunità vere in questo momento stanno nella parte centrale della Cina, dove c'è molto meno competizione, dove c'è fama di prodotti interessanti e dove anche marche non conosciute e comunque di qualità e prodotti industriali di qualità italiani possono veramente ottenere risultati importanti. Quindi in questo senso io credo che il potenziale vi sia, va valorizzato e sfruttato in una chiave non convenzionale. Guardate, cari imprenditori, al centro della Cina, dove il prodotto interno lordo cresce ancora del 15% all'anno. Dove ci sono delle grandi città di più di 1 milione di abitanti, sono più di 600 le città con più per la precisione, sì, c'è questo numero che è un po' sballato, sono 250 le città con più di un milione di abitanti in Cina. Quindi sì. Come Milano ci sono almeno 200 città in Cina che possono essere, in cui c'è appunto anche una classe media, una classe che ha delle disponibilità di spesa a cui possono essere portati i prodotti italiani. 300 milioni, quindi 300 milioni di classe media, dove vi è la possibilità, per quanto riguarda i beni di consumo, quindi di accedere ai prodotti occidentali, e non le solite, come dire, le solite insegne arcinote. Questa classe media, che è così numerosa, cerca prodotti di qualità a un prezzo un pochino più ragionevole. Quindi anche, diciamo, le marche di secondo livello italiane, sfruttando quello che è l'enorme potenziale del Made in Italy, hanno veramente l'opportunità di giocare, come dire, di vivere in modo diverso questo momento difficile, attrezzandosi accuratamente per prendere un mercato che è un mercato, dal mio punto di vista, ma non soltanto mio, decisamente interessante. Ecco, cosa sta cambiando negli ultimi tempi, negli ultimi mesi? C'è stato un cambio, non di regime, ma un cambio di persone alla testa del regime cinese. Sta cambiando qualcosa anche dal profilo economico, dal profilo dei rapporti economici con l'estero? E siamo ormai a un mese dal terzo plenum del congresso, del 18° congresso del partito, che notoriamente è il plenum che vara le grandi riforme. Sta cambiando molto, nel senso che il presidente Xi Jinping, con Li Keqiang, che è il primo ministro, ha sostanzialmente deciso di, uno, introdurre, sembra banale per noi ma è importantissimo, introdurre il tema di un'economia orientata al mercato, in cui le aziende pubbliche hanno ancora un ruolo, ma non hanno un ruolo esclusivo come quello di prima. Secondo, liberalizzazione del mercato finanziario. Terzo, ed elemento ancora più importante, il fatto che la Cina è ormai consapevole che non può più essere, diciamo, manifattura del mondo a basso costo, i costi del lavoro non sono più sostenibili, la Cina punta ormai decisamente, vira verso l'innovazione e vira verso un obiettivo di crescita della domanda interna. Se abbiamo 300 milioni di consumatori e con potenziale d'acquisto dei nostri prodotti, se si intende virare verso la domanda interna, favorendo anche quello che è il più grande processo di urbanizzazione della storia moderna, 500 milioni di ulteriori uomini che dalle campagne si sposteranno nella città, è chiaro che in questa chiave molto sta cambiando. E devo dire che anche ai primi di dicembre il primo ministro Cameron si è recato in Cina, e se ricordiamo che solo un anno fa c'è stato uno scontro piuttosto massiccio per quanto riguarda i diritti umanitari, in verità a un anno data le cose sono cambiate perché evidentemente Cameron, che sta puntando per rilanciare il paese, vede nella Cina un interlocutore privilegiato. Ecco, però alcuni osservatori dicono che la Cina sta un po' rallentando, non si è più ai livelli del 10-12% di crescita annua che c'erano stati nel secolo scorso, forse alla fine degli anni 90, adesso cresce solo del 6-7-8%. Questo è un rallentamento strutturale oppure è proprio un adattamento a nuove condizioni? Si punta più, appunto, come diceva, sulla realtà interna, e questa fa più fatica forse a crescere che non le esportazioni trainate da bassissimi costi del lavoro che c'erano alcuni anni fa. È strutturale questo cambiamento dei tassi di crescita, non si poteva pensare che si crescesse sempre a doppia cifra, è 30 anni che sta crescendo in misura imponente questo grande sistema quasi continente che è la Cina. Questo rallentamento è un rallentamento che in parte deriva dalla situazione oggettiva di crisi economica internazionale, che quindi rallenta le esportazioni, ma dall'altro lato è il segno di un paese e di un governo che intende, come dicevo poc'anzi, cambiare rotta, prendere una rotta un po' meno orientata agli investimenti infrastrutturali e andare viceversa verso investimenti in capitale umano, investimenti in innovazione. Questo tipo di rallentamento quindi è spiegabile anche in questo, ma diciamo che è salutare, e este salutare dal mio punto di vista nei prossimi 2 o 3 anni si attesterà al 7% il tasso di crescita del PIL. Più di questo non sarà possibile. Ricordo peraltro timidamente che è già la seconda economia del mondo, cresce del 7%, noi stiamo calando dell'1,9% secondo le ultime previsioni. L'Europa comunque, se crescerà nel 2014, crescerà di uno 0 punto, come dire, chapeau. Sì, certamente sono invidiabili le loro volontà forse di uscire da secoli di stagnazione, di chiusura al resto del mondo. La Cina sta riscoprendo, quindi anche da un profilo, ritornando appunto al Politecnico, anche da un profilo educativo, anche per l'Italia su questo fronte ci sono grandi opportunità. Assolutamente sì, ci sono grandi opportunità sia dal punto di vista universitario che anche post-universitario. C'è fame da parte dei manager, degli architetti, di acquisire competenze italiane, e in verità non solo. Quindi ci sono enormi opportunità di mercato anche per formare quell'enorme massa di professionisti che è assetata di competenze e che vuol fare di queste competenze la ragione d'essere del loro business per il futuro. Ecco, perché economia non vuol dire solo vendere, produrre, vuol dire anche questo, ma vuol dire anche conoscere, avere certe conoscenze anche da un profilo culturale, e in questo è importante anche l'esperienza come quella del Politecnico di Milano. Ma ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Incontri. Ancora con questa musica tradizionale cinese, ecco un brano che si chiama Il giorno dell'emancipazione. Riprendiamo il nostro incontro con Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina. Nella prima parte abbiamo guardato appunto alla Cina, a questi cambiamenti che stanno avvenendo nel grande paese asiatico, a un certo rallentamento economico che comunque è ancora una crescita, se non galoppante, comunque significativa. Ecco, il giorno dell'emancipazione, forse ricorda qualcosa, la Cina è ormai un paese a pieno titolo nel novero dei paesi della globalizzazione. Assolutamente sì, è bellissimo questo spunto musicale perché è veramente coerente con quello che è l'impianto culturale e valoriale che si vuole innestare nei cittadini cinesi. Anche non sfuggirà ai radioascoltatori che anche tutto quello che è la disputa sulle isole del Pacifico con il Giappone hanno in realtà un obiettivo chiaro, così come l'ha avuto l'Expo di Shanghai nel 2010 e le Olimpiadi di Pechino nel 2008. Risvegliare nei cinesi un orgoglio di appartenenza ad un grande paese. Le Olimpiadi e l'Expo sono state manifestazioni di forza plastiche volte a mostrare alla società civile cinese che la Cina è tornata. La Cina in questo senso sta prendendo sempre più coscienza e sta nella scacchiera internazionale giocando partite interessanti. Ne cito tre, essendo largamente incompleto. La prima è quella legata all'ASEAN, l'Associazione dei Paesi del Sud-Est Pacifico, dove in qualche modo prima era fuori, sta cercando di entrare per gestire quella che potrebbe essere un'area di integrazione economica molto importante. La seconda è il ruolo che sta giocando in Africa, a tutti noto, ma che è veramente imponente, nel senso che è pervasivo e capillare nei vari paesi. E il terzo elemento, l'enfasi che sta sempre più ponendo circa la necessità, e lo fa il banchiere centrale cinese, la necessità di introdurre una valuta internazionale che vada oltre il dollaro, richiamando quelli che sono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale. Cioè, anche in questo senso, si vuole strumentalmente affermare il fatto che il renminbi deve diventare sempre più, lo diventerà probabilmente, una valuta di scambio importante, che non dico svolgerà un ruolo antagonista, ma comunque in qualche modo cercherà di contrabilanciare il monopolio monetario giocato dal dollaro. Ecco, la Cina sarà presente all'Expo di Milano nel 2015 con un suo padiglione. Verranno anche i cinesi a visitare l'Expo? La Cina in realtà è presente con tre padiglioni. La Cina sta facendo un investimento importantissimo da questo punto di vista. L'investimento che sta facendo nell'Expo di Milano è coerente con quanto ci siamo appena detti, cioè il fatto che la Cina fa vedere agli altri paesi del mondo che non sta a guardare e che materialmente la simbologia in Cina conta molto, quindi anche, come dire, questa materialità così imponente, simbolo di potere, quindi la Cina sarà molto presente. È chiaro che la sfida importante sarà la sfida di attrarre quelli che sono i turisti cinesi. Gli ascoltatori credo sappiano che sono già la più grande popolazione turistica del mondo, 83 milioni di visitatori cinesi in giro per il mondo, 100 milioni entro il 2015. È chiaro che hanno davanti a loro il mondo intero. L'obiettivo sarà quello, anche grazie a Expo, ma soprattutto secondo me grazie alla capacità di sviluppare un piano di promozione integrato, di indirizzare quella quota parte che di cinesi che in questo momento un pochino sta snobbando l'Italia. La sta snobbando perché non la conosce e noi, devo dire, non stiamo facendo moltissimo per promuoverla. Abbiamo tre problemi di fronte alla conoscenza italiana in Cina. Prima la promozione, la seconda i collegamenti aerei e la terza sono i visti. Sono tre problemi che l'Italia deve affrontare in maniera rapida. Assolutamente sì. Parto dall'ultimo, il tema dei visti. Devo dire, l'ho sperimentato appunto nell'ultimo mio viaggio di ormai un mese fa, a metà novembre. È un tema, mi permetto di dire, risolto, nel senso che la struttura diplomatica che in questo momento è presente nelle varie sedi in Cina ha sostanzialmente cambiato il sistema di varo dei visti e già si sono visti i risultati. Quindi mi permetto di dire che questo problema è, tra virgolette, superato. Il tema vero è il tema delle rotte aeree che oggettivamente sono carenti. i tour operator cinesi sono in molti casi costretti ad andare in altri hub se vogliono venire in Italia. Quindi l'auspicio, ma sono sicuro che si sta lavorando in questo senso, è che il governo, d'intesa, come dire, con gli aeroporti che saranno interessati, primo fra tutti SEA, decisamente prenda la via per l'apertura di quelli che sono gli spazi per altre compagnie che in qualche modo, rumors mi dicono, essere comunque interessate. Quindi lascio i radioascoltatori intendere, certo, che cosa. Qualche problema, ma non è questo il momento di affrontarlo con le compagnie aeree italiane, ce lo abbiamo. Ma qualcuno quindi si dice di sì. Ecco. Beh, guardiamo appunto allora al terzo problema, che è quello dell'immagine italiana. Portare l'Italia, l'immagine italiana in Cina. C'è un'immagine forse un po' tradizionale, come incrementare, come valorizzare questa immagine? Guardi, prima cosa, superare il concetto della micro promozione di destinazione. In Cina io vedo continue delegazioni di piccole città, ma anche grandi, ma comunque insignificanti per i cinesi, che si promuovono. L'unico vero patrimonio che noi abbiamo è Italia. Quindi noi dobbiamo veicolare non la singola città, non la singola regione, ma l'Italia. Punto uno. Punto due, dobbiamo veicolarlo nel modo giusto. Per veicolarlo nel modo giusto, un po' meno partecipazioni a fiere turistiche e invece molto più narrativa. Mi spiego, la Svizzera ha varato un importante piano turistico che valorizza la Cina attraverso docufiction, soap opera, cinematografia e quant'altro. In fondo la cinematografia è stata un formidabile, lo è ancora, veicolo di apprendimento. Io credo che il racconto narrativo dell'Italia e dei suoi formidabili territori sia una chiave di volta importante. Terzo elemento, pensare che questo debba essere fatto sempre più in chiave digitale. La Cina è già il primo popolazione di internauti nel mondo, 600 milioni di internauti, 1 miliardo e 100 milioni di possessori o comunque di tessere telefoniche mobile. E i cinesi sono i più grandi utilizzatori dei social network, che non sono Facebook e Twitter, ma sono altri, Weibo, WeChat, Sina e RenRen, e sono divoratori di informazioni da questo punto di vista. Quindi serve una promozione basata sull'Italia, integrata, che punti sul digitale e che faccia arrivare i contenuti nel modo giusto. Ecco, io dedicherei l'ultima parte di questa nostra conversazione guardando un po' anche al di là della Cina. Lei, da economista, magari dimenticandosi un attimo di essere prorettore del Politecnico per la Cina, ma di essere economista ed essere appunto ai vertici di una grande università, guardando all'insieme del panorama globale, e si dice per esempio che l'Italia, c'è stata la moda dell'andare in Cina, però abbiamo dimenticato mercati importanti, per esempio come quello degli Stati Uniti. È molto più facile creare un'azienda negli Stati Uniti che non in Cina. Molto ragione. Gli Stati Uniti sono ancora una formidabile opportunità per il nostro paese e per le nostre imprese. Lo dico anche dal punto di vista turistico, parlavamo di Expo, e come dire, attrarre turisti americani è importantissimo perché spendono ancora molto. Quindi gli Stati Uniti sono un'area fondamentale che non ci possiamo permettere di trascurare. Mi permetta però di dire che abbiamo anche altre aree che un pochino trascurate e che sono largamente alla portata dell'Italia. Primo punto, i paesi nordafricani, che a dispetto della situazione hanno qualche problema di stabilità politica. Ce l'hanno. Forse più dell'Italia. Più dell'Italia, però stanno già, nonostante la stabilità, stanno esprimendo un formidabile fabbisogno di infrastrutture. E la Turchia è un altro. Quindi queste sono aree ulteriori, di, tra le tante, di grande interesse. Ecco, in questa prospettiva cosa augurerebbe all'economia italiana nel questo 2014 che tra qualche settimana dovremo salutare? All'economia, agli imprenditori augurerei di prendere consapevolezza da un lato delle opportunità che vi sono associate all'essere italiani, che è ancora un qualcosa di importante nel mondo, ma nel contempo augurerei loro di avere la forza e il coraggio di essere consapevoli che occorre cambiare il modo di fare impresa rispetto al passato. Una molto minore proiezione interna, e quindi internazionalizzazione. Secondo elemento, e questa è la vera chiave di discontinuità, avere la capacità di essere presenti sui mercati finali, che vuol dire un po' meno subfornitori e invece capacità di affermare una propria identità di marca, una propria presenza che mette al riparo le nostre imprese poi da decisioni improvvise da parte degli interlocutori che stanno a valle, che improvvisamente possono decidere di cambiare fornitore. Quindi andiamo verso i mercati finali. Ecco, e ai giovani che sono i primi utenti del Politecnico, che differenza c'è tra i giovani italiani e quelli cinesi? Guardi, in realtà è lo specchio della differenza dei paesi. In Cina c'è ancora una tensione verso il fare business, verso il sacrificio, che in Italia è un po' meno presente, direi largamente meno presente. E i nostri giovani sono giovani in qualche misura che sono il frutto di una società che è stata, che ha avuto un livello di molto elevato comunque di standard di vita, e che non hanno ancora pienamente metabolizzato che ora invece di rimboccarsi ancora pesantemente le maniche, perché i giochi non si fanno tra Italia e Germania solo, Italia e Europa, ma si fanno tra Italia e il mondo, e quindi non c'è solo la Cina, ci sarà il Messico, l'Argentina, il Brasile e tanti altri paesi africani che a breve emergeranno e spingeranno molto. Quindi questa è una differenza. Trovo molta più cattiveria, tra virgolette, di business e voglia di fare da parte dei cinesi rispetto ai nostri giovani italiani. Per carità, ce ne sono ancora tanti di nostri brillanti, ma mi piacerebbe fosse più generalizzato questa voglia di scommettere. Anche magari una voglia di scommettere andando all'estero, ma con l'ottica di rientrare. Molti giovani italiani vanno all'estero, ma poi quando vanno all'estero si fermano. Perché non rientrano? Ma la sua domanda è una domanda, come dire, che ha una risposta, come dire... io vivo il caso di molti nostri studenti, noi abbiamo centinaia di accordi con università internazionali nel mondo, e quando sono fuori mi dicono: professore, noi qui respiriamo un clima positivo, una voglia di fare, e soprattutto se abbiamo competenze queste ci vengono nella media riconosciute. Quindi ritengo che questo concetto astratto che si chiama meritocrazia debba essere pesantemente introdotto per davvero e non semplicemente dichiarato, altrimenti comunque dobbiamo essere consapevoli che la migrazione di talenti ci sarà, e ci sarà perché la vogliamo noi. Quindi possiamo darci un obiettivo, quello di credere sempre di più nel merito di una società che premi il merito, premi la capacità, che sappia difendere anche i più deboli, ma che comunque riconosca la capacità, la voglia di fare, la voglia di iniziativa. Può essere questo l'augurio per i prossimi mesi. Ma io direi che a me piacerebbe un 2014 di un'Italia che investe nel capitale umano, avendo consapevolezza che questo è il motore per la crescita futura. Grazie, grazie a Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina. Abbiamo fatto una panoramica della realtà cinese, ma anche della realtà economica internazionale, in cui ci sono molti punti di debolezza, ma anche molti punti di forza su cui bisogna contare. Grazie a Giuliano Noci, grazie a Pietro Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.